tempi, momenti che ti senti che non ti smuovi, ristagni dove ti trovi e lì rimani. Ti tremano le mani sopra un foglio bianco, il cervello è stanco, non esce più l'inchiostro dalla penna, è quasi bianco. Mi manco, mi sono perso in un lavoro senza senso, sono rimasto preso in mezzo, succhiato in un amplesso, mortale con me stesso, e quando ci ripenso mi stresso, cambiato in peggio, di riflesso, mi sento un cesso, il vizio della fantasia, cazzo l'ho perso, ho smesso, ma ancora, nella mia memoria, qualcosa di indelebile è rimasto impresso, non mi si è spento, un microfuoco aspetta ossigeno, e lo avrà presto. Qualcuno ha scoperchiato la tomba dello zombie che si è svegliato. Era stato qualche anno in letargo e mo sta riposato. Non c'ha più sonno, non c'ha più sonno. Qualcuno ha scoperchiato la tomba dello zombie che si è svegliato. Era stato qualche anno in letargo e mo sta riposato. Non c'ha più sonno, non c'ha più sonno. Basta col sonno, mi impongo che devo organizzare una festa per il giorno del ritorno. Nuvole di fumo azzurro si erano sparse tutte intorno. C'ho questo vago ricordo del letargo, un trip storto, musica dal morto, il fiato corto, la stessa ver che ci puoi avere in un abbiocco. Nessuno stimolo da chi mi stava attorno, o se c'è stato io non l'ho colto. La penna era scoppiata, non riusciva più a scrivere, ogni idea era impossibile da esprimere. Ero un'anima persa nel limbo con peccati da redimere, ma a quanto pare sono tornato a vivere. Ma Larsen, ma hai 32 anni ancora con il rap? Ma che stai facendo? Dormi, lascia perdere. Ma roba da ragazzini, tutto sto lavoro per vendere 50-60 copie. E poi c'è internet, e poi... Qualcuno ha scoperchiato la tomba dello zombie che si è svegliato. Era stato qualche anno in letargo e mo sta riposato. Non c'ha più sonno, non c'ha più sonno. Qualcuno ha scoperchiato la tomba dello zombie che si è svegliato. Era stato qualche anno in letargo e mo sta riposato. Non c'ha più sonno, non c'ha più sonno. Qualcuno ha scoperchiato la tomba dello zombie che si è svegliato. Era stato qualche anno in letargo e mo sta riposato. Non c'ha più sonno, non c'ha più sonno. Qualcuno ha scoperchiato la tomba dello zombie che si è svegliato.